GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Domenica da Bollino Rosso, traffico intenso su strade e autostrade per gli spostamenti tra esodo e controesodo di Vacanzieri in vista del Ferragosto. Al momento code a tratti con la circolazione che però potrebbe aumentare nelle prossime ore. Una delle principali mete per i turisti è la spiaggia di Grado, che registra il pienone e dove è in vigore l'ordinanza del comune che predispone la chiusura al transito delle vetture nel centro storico e altre limitazioni. Una mattinata alla riserva marina naturale protetta adulti e bambini di Miramare, dedicata allo snorkeling, una modalità di osservazione dell'ambiente sommerso adatta a tutti. Sport, nella Coppa Italia di Serie C, pessimo esordio per la Triestina che fallisce il primo obiettivo stagionale, perdendo al Rocco contro il Trento per 1-0 e venendo eliminata dalla competizione. Le 12 e 16 minuti in questo istante, questi titoli, buongiorno e ancora buona domenica da Giorgio Bearz e Daniele Lettige, che condurranno questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia dell'11 agosto. Dopo un sabato da Bollino Nero che ha fatto registrare purtroppo anche incidenti con feriti al confine tra il Veneto e la nostra regione, anche oggi, domenica, da Bollino Rosso, previsto traffico intenso per tutta la giornata su strade e autostrade, appunto per gli spostamenti tra esodo e controesodo di tanti vacanzieri in vista del Ferragosto. Al momento si registrano code a tratti tra San Donà di Piave e la Tisana in A4 in direzione Trieste e sempre in direzione Trieste code a causa di traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e il nodo di Palmanova. Sempre a Palmanova, sulla A4 in direzione Trieste, è segnalato un incidente sulla corsia di immissione per chi arriva da Tarvisio e si immette nel bivio A4-A23. La circolazione potrebbe poi aumentare nel corso delle prossime ore, soprattutto agli svincoli di la Tisana, al casello dell'Isert verso l'Austria. E poco fa i vigili del fuoco di Gorizia sono intervenuti per un incendio che si è sviluppato nelle vicinanze della Stradale 14, in prossimità della cartiera di Monfalcone. E questa domenica una delle principali mete per i turisti è senz'altro la spiaggia di Grado, che registra il pienone, dove è in vigore l'ordinanza del comune che predispone la chiusura al transito delle vetture nel centro storico e altre limitazioni. Dopo alcuni anni il comune di Grado ha riproposto la chiusura al traffico del centro cittadino, scattata alle 9 e in vigore fino alle 13. I parcheggi blu a ridosso del centro si sono riempiti già prima delle 8:50. La chiusura sperimentale, chiesta anche dalla cittadinanza, ha voluto ridurre l'impatto ambientale dei veicoli privati, le emissioni inquinanti ed acustiche, migliorare la sicurezza, promuovendo così la mobilità sostenibile, con l'intento di favorire l'utilizzo dei mezzi pubblici. Messo a disposizione un bus navetta gratuito per il collegamento dal parcheggio tra Sacca dei Moreri e il centro. La mattinata di oggi è stata la prova generale della nuova chiusura prevista per Ferragosto. Qualche criticità al varco di accesso al centro cittadino presidiato dalla polizia locale nel verificare i permessi delle categorie autorizzate a fornire le indicazioni ai tanti turisti stranieri giunti anche in macchina in laguna. A Ferragosto è previsto il tutto esaurito, tante le prenotazioni previste fino a settembre. Sold out anche gli ombrelloni nel tratto di spiaggia gestito da Grado Impianti Turistici. Tra i 9.000 e i 10.000 i bagnanti di tutte le generazioni, dagli amici di una vita che giocano a bocce fino ai bambini che si sfidano in una gara di corsa su una fila di SUP in mezzo al mare. Grado, Andrea Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. Siamo al tempo, cielo sereno su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 29,5 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 29 gradi, a Gorizia 32,5 gradi, a Udine e Pordenone 32, sul Piancavallo 23,5 gradi, a Sappada 25 gradi, a Forni di Sopra e Tarvisio 26, a Tolmezzo 29, sul Monte Lossari 20 gradi, sul Monte Zoncolan 18, a Grado 30 gradi, a Lignano 31 gradi, con temperatura del mare in entrambe le località di 28,5 gradi. E queste le previsioni: nel pomeriggio cielo in prevalenza sereno con qualche nube sui monti, farà caldo con temperature in ulteriore aumento, venti a regime di brezza che tenderà ad attenuare il caldo sulla costa, stessa situazione prevista per domani. Con lo slogan "Estate in movimento, la salute non va mai in vacanza", il comune di Trieste ha predisposto per questo periodo ferragostano una serie di eventi dedicati allo svago all'aria aperta. Fra queste, una mattinata alla riserva marina naturale protetta di Miramare, adulti e bambini, che si dedicano allo snorkeling, una modalità di osservazione dell'ambiente sommerso adatta a tutti. Unico requisito saper nuotare e fornirsi di pinne ed occhiali, ma senza fucile. Sempre più calde e sempre più frequentate da organismi marini che fino a non molti anni fa erano rari alle nostre latitudini, sono le acque dell'Alto Adriatico e del Golfo di Trieste, dove negli ultimi giorni sono stati ripetuti gli avvistamenti di specie non autoctone, come il pesce balestra, almeno una decina gli esemplari ormai stanziali tra muggia e barcola, e lo squalo volpe. Colpa del surriscaldamento del mare, che permette la sopravvivenza di questi esemplari alieni che entrano in competizione con le specie tipiche del nostro mare. Anche per sensibilizzare le persone sul tema dei cambiamenti climatici, la riserva marina protetta di Miramare ha organizzato una mattinata di snorkeling per imparare a riconoscere le trasformazioni dell'ecosistema e in particolare i segnali di sofferenza di flora e fauna subacquee. Un'attività di citizen science che permette ai ricercatori di mettere insieme di volta in volta una grande quantità di dati da analizzare e da confrontare, facendo sì che le persone possano fungere da antenne sul territorio capaci di monitorare il nostro mare e di riportare in autonomia alle autorità scientifiche segnalazioni e avvistamenti inconsueti. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ostacoli da superare, barriere da aggirare, tra spruzzi d'acqua, getti di polvere colorata e altri divertenti giochi inaspettati, tutti disseminati tra le calli di Muggia. È stato questo il percorso della Carnival Run, la corsa goliardica che si autodefinisce la più pazza del mondo e che ieri si è svolta, come da tradizione, tra le strette strade del centro storico. 650 partecipanti, in maggioranza muggesani, ma con la partecipazione anche di diversi turisti arrivati pure da Slovenia e Austria. Moltissime le maschere con travestimenti da sirene, meduse colorate, uomini tigre, per non parlare del chiassoso gruppo dei mussati. Una giornata all'insegna della goliardia che ha fatto da preludio alla Vogada Matta, che questa sera alle 19 vedrà sfilare davanti al lungomare Venezia le originali e fantasiose imbarcazioni realizzate dalle compagnie del carnevale. Siamo allo sport calcio nella Coppa Italia di Serie C. Pessimo esordio per la Triestina, che fallisce il primo obiettivo stagionale perdendo allo Stadio Rocco contro il Trento per 0-1 e venendo così eliminata dalla competizione. Caldo soffocante e gambe pesanti, il calcio d'agosto non offre spettacolo e Triestina-Trento di Coppa Italia non fa eccezione. Squadre intraprendenti solo nel primo tempo, la prima chance è degli ospiti con Sipos che indirizza debolmente di testa da buona posizione, un bel cross dalla sinistra, lavoro facile per Ross. Risposta immediata dell'Unione con Vozza che al terzo cerca un pallonetto dai 20 metri, palla sopra la traversa. Triestina avvicina il vantaggio al quindicesimo, dopo una punizione di Elas Rak, Germano da oltre 30 metri impegna ancora il portiere ospite. Il Trento risponde, ancora con Sipos di testa e poi con il destro tagliato dal limite di Giannotti, ma la difesa alabardata è pronta. Ripresa senza sussulti, l'emozione arriva nei minuti di recupero quando un errato disimpegno alabardato porta all'atterramento di Anastasia in area. Lo stesso attaccante spiazza Ross dal dischetto. È l'episodio che decide la sfida. La Triestina esce dalla Coppa Italia dando l'impressione di dover ancora rafforzare il reparto difensivo. Si preparerà con test amichevoli all'esordio in campionato al Rocco il 24 agosto contro l'Arzignano. Andrea Covre, TGR, Friuli Venezia Giulia. Siamo al baseball, una vittoria e una sconfitta nel turno interno del girone retrocessione del campionato di Serie A per la Gereon Engineering di Ronchi, opposta alla capolista Padova. 10-0 per i ronchesi nella partita pomeridiana e 4-1 per gli ospiti alla sera. Nella prima partita tutto si decide tra la quarta e settima ripresa dopo un sostanziale equilibrio in virtù della pressione dell'attacco ronchese e dell'ottima prova sul monte di lancio del giovane Della Silvestra, che costringe gli avversari alla resa al settimo inning per manifesta superiorità. Alla sera la gara scorre in parità sino all'ottava ripresa, quando i patavini riescono a sfondare e incamerare i 4 punti che varranno la vittoria finale. Non riesce il forcing finale delle Pantere, che incamerano un solo punto all'ultimo attacco. Dopo queste partite, a 4 turni dalla fine del girone, Ronchi conserva il secondo posto con 5 vittorie e 3 sconfitte. Concludiamo con alcuni appuntamenti con i concerti di oggi in regione. Alle 18 a Palazzo Veneziano di Malborghetto Valbruna si esibirà il compositore e pianista friulano Glauco Venier con il suo quartetto nuovo. A Trieste sarà di scena il tango con il concerto del quartetto contemporaneo composto da Gianni Iorio, bandoneon, Matteo Pippa, violino, Carla Agostinello al pianoforte e Roberto Della Vecchia al contrabbasso, alle 21 in Piazza Verdi. Ultimo appuntamento per la rassegna Banda d'Estate a Muggia. Sul palco questa sera l'orchestra a fiati Città di Muggia, alle 20.30 al Parco Archeologico di Muggia Vecchia. E appuntamento conclusivo anche per il Pordenone Live Festival, che questa sera propone il concerto del rapper pugliese Kid Yugi alle 21.30 al Parco San Valentino. e alle 12:24 minuti e 30 secondi è tutto per questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Daniele Ettige e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Mauro Cumini e Federico Comar. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Prossimo appuntamento con il GR alle 18:30. Grazie dell'attenzione e buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.